as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, siamo di nuovo qui oggi ad Il Pane e le Rose, la trasmissione dei lavoratori metalmeccanici e non solo. Oggi puntata positiva, oggi una puntata di quelle che io vorrei fare sempre, in cui raccontiamo una storia iniziata molto male ma finita bene. Una di quelle storie in cui i lavoratori lottano, una di quelle storie in cui tutti gli attori sul campo si sono prodigati per far sì che i posti di lavoro fossero preservati. Stiamo parlando della SAMP del gruppo Maccaferri. Aziende storiche situate nel territorio di Bentivoglio, il gruppo Maccaferri è molto più grande, questo gruppo Maccaferri, ricordiamo bene, hanno avuto in questi ultimi anni un crack finanziario importante. Queste erano aziende che andavano bene, avevano ordini, ma a causa di errori di questi imprenditori, così li possiamo definire un po' estroversi sul piano finanziario, un po' come accadde alla Parmalat, ma con situazioni molto diverse, alla fine i lavoratori da un giorno all'altro si sono trovati in un'azienda fallita, praticamente, che non pagava più i fornitori e si rischiava di perdere tutti i clienti. C'è stata una lotta sindacale, di scioperi, manifestazioni davanti al comune, davanti alla prefettura, davanti alla regione. Alla fine c'è stata una cordata di aziende che ha rilevato, grazie anche al lavoro sindacale fatto insieme alle autorità politiche regionali e provinciali, insomma, si sono riusciti a salvare questi 600 posti di lavoro. Si è spacchettato tutto questa azienda, ma loro erano già comunque divisi, facevano varie tipologie di prodotto e ognuno ha preso la sua strada, ma la cosa più importante è che queste aziende sono rimaste sul territorio, sono stati tutelati i posti di lavoro, è stata fatta la cassa integrazione, alcune mobilità incentivate, come spiegherà Colli, però insomma sul territorio le aziende sono rimaste, il know-how è rimasto e insomma i lavoratori sono abbastanza contenti di come è andata la vertenza. Ne riparliamo perché ci sono varie ne abbiamo già parlato in passato diverse volte, sia quando c'era una situazione critica, sia poi quando si è risolta la situazione. Ne abbiamo parlato già con Colli diverse occasioni. Ci sono delle novità, ci sono degli investimenti, delle assunzioni, e per questo ne abbiamo parlato con lui insieme ad Alessandra Testa, la nostra collaboratrice del Pane delle Rose, che con noi farà alcune puntate. Lei si occupa di lavoro, scrive per il Corriere di Bologna. Adesso sentiremo l'intervista fatta a Colli. Prima un pezzo che Colli ci ha richiesto. Colli, ogni volta che lo intervistiamo, ci chiede sempre dei pezzi musicali molto molto belli. Ciao, a dopo. Yeah. Siamo qui con Marco Colli, che è componente della segreteria della FIOM di Bologna, oltre che il funzionario che in questi anni si è occupato della vertenza Maccaferri, in particolare delle aziende metalmeccaniche del gruppo, che rappresentano di fatto l'unica grande dinastia industriale bolognese che, come tutti sappiamo, ha conosciuto una crisi finanziaria che rischiava di mettere in pericolo centinaia di lavoratori, che invece anche grazie all'intervento di Colli e della FIOM, che era l'unico sindacato coinvolto, si è riuscito a mettere in salvo oltre 600 lavoratori che sono stati tutti ricollocati al netto di qualche piccolo prepensionamento. Però la maggior parte dei lavoratori ha trovato una nuova ricollocazione, ma soprattutto è rimasta sul territorio nelle aziende per cui già lavorava. Con Colli volevamo proprio ripercorrere questa vicenda, perché bisogna ammetterlo, Colli aveva visto prima, in anticipo rispetto agli stessi imprenditori, quello che stava succedendo, quindi era molto preoccupato e aveva organizzato insieme ai lavoratori della SAMP, l'intera divisione, un presidio sotto il Nettuno, ed era l'autunno del 2019, direi. Quindi volevo partire da lì, Marco. Raccontiamo come vi siete accorti di queste difficoltà e soprattutto di come si è arrivato a questo momento in cui si può dire, senza essere contraddetti, che quello che rischiava di essere un disastro si è poi tramutato in una fenice che ha ricominciato non solo a lavorare sul territorio, ma anche a riposizionarsi positivamente sul mercato industriale. Grazie della domanda. Allora, i primi segnali vedevamo le macchine che non venivano più, non c'era più manutenzione, ma sto parlando proprio anche di cose molto semplici, cioè l'olio, gli stracci per pulire le macchine, cominciamo a vedere una sorta di degrado, no, nella manutenzione di quello che era sempre stata, anche da un punto di vista, diciamo così, estetico, una fabbrica gioiello, no? Quindi le prime cose che i lavoratori ci segnalavano è che manutenzioni programmate non venivano fatte, che cominciavano, ad esempio, ma dico cose anche molto che possono sembrare banali, il benzinaio di Bentivoglio, dove le macchine aziendali andavano a rifornirsi, non veniva pagato, quindi contattavano i nostri delegati sindacali. E poi abbiamo a questo punto deciso di fare un'assemblea, una grande assemblea nei luoghi di lavoro, dicendo quello che noi cominciavamo a intravedere come un pericolo. ma la cosa più, proprio perché come ricordavi tu, no? Maccaferri, chi andava a lavorare alla Maccaferri era come se andasse a lavorare presso lo Stato, no? Cioè chi entrava in Maccaferri andava in pensione, e quindi quando noi approcciamo un'assemblea molto complicata, alcuni lavoratori, cioè stupefatti di questi nostri avvisagli, di questi nostri segnali, ci chiedevano: ma Maccaferri sa di cosa sta succedendo nella fabbrica? Ma la colpa non è di Maccaferri, la colpa è di chi sta guidando questa azienda. Poi invece, diciamo così, lavorando, parlando, contattando i fornitori, ci rendiamo conto che non era una semplice difficoltà nel pagamento, perché magari c'erano dei problemi di liquidità immediata, ma era una vera voragine che arrivava appunto, come poi dicevi in assemblea, circa a 1 miliardo di euro. E la cosa più complicata da far capire alle persone era questa sorta di tradimento, cioè loro si sono sentiti traditi, perché appunto consideravano, c'era un attaccamento alla famiglia e alla proprietà, e quindi il primo muro che abbiamo dovuto, diciamo, rompere è stato quello di dire: guardate, quello che è stata una dinastia oggi vi porterà giù nel burrone. Adesso però noi volevamo chiederti soprattutto quello che è successo quando poi alla fine si è arrivata alla soluzione. Alcune aziende siete riusciti a far acquistare a pezzi la Maccaferri di alcune aziende, e in particolar modo volevamo parlarti del pezzo bolognese, quello della Bonfiglioli, i riduttori. Sì, certo, anche questo le officine della Samp aveva varie divisioni dentro. Uno di quei gioielli che era sempre stato un pezzo della Samp era gli ingranaggi. A questo punto è intervenuta la Sonia Bonfiglioli, di cui appunto ci diceva anche che era un pezzo romantico, no, nella sua vita, ed ha acquistato il pezzo della Samp ingranaggi, che appunto poi con un accordo fatto in regione ci ha anche spiegato che così completava il portafoglio della sua azienda, dell'azienda di famiglia. Anche qua siamo riusciti a salvare tutti i lavoratori, a garantire il salario e i diritti acquisiti nel tempo. E l'ultima tappa è stata invece sempre l'altra divisione della Samp, che è la Samp Sistemi, che con cui si è riuscita a ottenere anche la certezza che si rimarrà a Bentivoglio nel tempo, almeno 7 anni, però si spera ancora di più, insomma. No, certo, lo ricordavi tu all'inizio, la soddisfazione che c'è stato sì lo spezzatino, perché era un boccone troppo grosso probabilmente prendersi tutti, però tutte le aziende sono state salvate e sono state mantenute sul territorio. L'ultima è stata la Samp Sistemi, appunto di proprietà di una finanziaria franco-finlandese, dove anche qua, siccome noi sostenevamo sempre che la Samp non era un problema di prodotto, ma era un problema di chi guidava questa azienda, continua ad avere moltissimi ordini. Abbiamo fatto un accordo sindacale che prevede, come è stile della FIOM, la volontarietà, e graduando anche degli incentivi sul quanto il lavoratore, sempre su base volontaria, fosse disponibile, ma soprattutto l'assunzione di 10 lavoratori a tempo indeterminato. Quindi, come ricordavi tu, una sorta di Areva Fenice che è risorta, e anzi, oltre a mantenere occupazione sul territorio, sta dando occupazione al territorio. Quindi praticamente dal fallimento si arriva all'immissione di nuovo personale. L'anno prossimo vedremo, insomma, nuovi ingressi a Bentivoglio. Sì, non solo appunto a Bentivoglio, ma anche ad esempio la divisione della Machine Tools, quella che si è trasferita ad Anzola Emilia, c'è uno stabilimento nuovo, uno stabilimento condizionato, e anche lì siamo circa a 8 nuove assunzioni con un boom di lavoro. Quindi, ripeto, era un gioiello bolognese, siamo riusciti, questa è la soddisfazione, a mantenere questa attività sul territorio. E addirittura a rilanciarlo, direi. Sì, sì, a rilanciarlo sicuramente, sì, sì, certo, a rilanciarlo. Invece ti volevo chiedere, il trasferimento della Samp Ingranaggi, ormai Bonfiglioli Ingranaggi, che verrà, anche ho visto che ci sono anche lì una questione occupazionale, abbiamo letto sui giornali. Sì, anche lì appunto sarà un'operazione che poi faremo con i compagni della RSU dello stabilimento Evo. Noi non siamo sicuri che appunto i tempi dovrebbero essere, da quello che noi hanno detto, verso agosto del 2024, poi è chiaro che partirà la discussione, la trattativa, per, diciamo così, amalgamare ancora meglio quelle che sono due realtà due realtà importanti sul bolognese, e che è giusto e corretto che appunto a questo punto arrivino a confluire sotto la stessa azienda. Tu sai che io lavoro lì in Bonfiglioli, vi stiamo aspettando e vediamo che stanno facendo dei lavori, ci sono i soliti problemi di parcheggio, però quello che interessava a noi è capire gli investimenti che stanno facendo sempre ingranaggi, perché tutto lì, bisogna quello che accade nel mondo. Se arrivano macchine nuove, se le macchine vecchie vengono dismesse, se anche lì ci sono delle assunzioni, se vedete ci sono possibilità di assumere lavoratori. Sì, sì, anche nello stabilimento di Bentivoglio, anche mi dicevano i delegati che una settimana fa hanno rottamato una macchina, perché partendo dall'inizio di questo appunto intervista il problema era proprio che non c'era manutenzione, erano macchine vecchie, quindi la Bonfiglioli sta investendo, sta sostituendo delle macchine, e anche mi dicevano i delegati proprio l'altro giorno che hanno avuto un incontro con la direzione aziendale, verrà sostituita da una nuova macchina. Ci sono già, diciamo così, degli scambi anche tra lavoratori che sono andati a Evo, dei lavoratori che invece hanno anche responsabili che sono venuti a Bentivoglio, e anche Bentivoglio nella divisione diciamo così della Bonfiglioli barra SAM di Bentivoglio stanno cercando personale. Ecco. Questo ci tranquillizza, visto anche il chiare di luna che vediamo all'orizzonte. Però io vorrei chiederti, a livello generale chiaramente, la Bonfiglioli stiamo facendo straordinari, penso anche a Sampi Ingranaggi, stiamo lavorando tantissimo. Questa storia, tu hai anche un'esperienza ormai decennale come funzionario della FIOM, questa storia della Maccaferri, cosa ti ha insegnato e che riflessione noi dobbiamo fare sia come FIOM che come in generale il mondo del lavoro e chi si occupa di questo? Beh, sì, noi spesso nella contrattazione, ma come è giusto che siano, ci chiedono chiaramente salario, però io ritengo che il sindacato deve riprendere in mano vere relazioni industriali, cioè che non sia il solito capitoletto che noi scriviamo in tutti gli accordi, ma soprattutto secondo me va ripresa in mano l'organizzazione del lavoro. Cioè io provengo dai luoghi di lavoro, le prime cose, come io da delegato mi sedevo al tavolo, spesso i vecchi delegati spiegavano all'azienda come si conduceva un'azienda e come si poteva migliorare un'azienda. Ecco, io ritengo che questa roba sicuramente negli ultimi tempi, non dico che sia stata tralasciata, forse trascurata, e quindi secondo me dovremmo più entrare, non dico nelle scelte dell'azienda perché competono l'azienda, però secondo me discutere come le aziende fanno delle scelte, il perché fanno delle scelte e quale possa essere il percorso per arrivare a quelle scelte, secondo me, senza arrivare personalmente al modello tedesco, però secondo me dobbiamo tentare di arrivare a capire cosa fanno le aziende, e questo è quello che anche poi ci ha permesso di arrivare forse a capire prima di molti anche quella situazione che stava maturando nel gruppo Maccaferri. Ti ringraziamo Colli. Grazie mille, e speriamo che insomma l'esperienza della Maccaferri insegni per il futuro a continuare a lottare, perché come dite sempre voi, poi quando si lotta la lotta paga. La lotta paga sempre. Ciao. Ciao, grazie a voi. Abbiamo ascoltato un altro pezzo bellissimo che ci ha chiesto di mettere il nostro compagno e amico Colli. Abbiamo ascoltato l'intervista che Alessandra Testa ed io abbiamo fatto a lui sulla situazione attuale dell'ex gruppo Maccaferri, delle varie divisioni della Samp, di quello che sta accadendo, degli ottimi risultati ottenuti, ci sono anche le assunzioni e gli investimenti che vengono fatti in varie divisioni. Abbiamo ascoltato come bisogna fare, Colli ci ha dato un consiglio, ha spiegato che tutti, dai funzionari sindacali, da chi dirige il sindacato, dai lavoratori, da chiunque, bisogna che stiamo molto attenti e controlliamo, dobbiamo gestire tutta l'organizzazione del lavoro, soprattutto anche l'aspetto finanziario delle varie aziende per non trovare brutte sorprese. Ora io lo chiudo qui perché l'intervista è stata esaustiva, insomma sia Alessandra che Colli hanno spiegato bene la situazione che oggi abbiamo nella Samp ed è davvero fa ben sperare. Io però vorrei parlare di un'azienda che purtroppo non è in una situazione come quella della Samp, parliamo della GKN, e il 22 sabato alle 3 ci sarà la manifestazione della GKN, ma non solo, di tutti quelli che stanno cercando di cambiare le cose in questo paese. Sarà una manifestazione, non sarà una semplice manifestazione in cui si parlerà della GKN, ci saranno i compagni della GKN, ma la GKN è riuscita a creare un fronte di vari compagni di varie parti d'Italia. A Bologna ci saranno quelli del No al passante di mezzo e ci saranno anche altri gruppi che si sono uniti, visto le varie assemblee che sono state svolte sul territorio, ma non solo a Bologna, in tanti altri territori del nord Italia. Per il 22 ottobre la GKN ha organizzato questa manifestazione a Bologna, anche perché insomma è un punto abbastanza centrale dove potranno arrivare vari compagni di varie parti d'Italia del centro-nord. Il 5 novembre ci sarà la manifestazione a Napoli, organizzata insieme ai disoccupati organizzati. E dunque noi invitiamo assolutamente, noi saremo lì il 22 in piazza, alle 3 a Bologna. Questa manifestazione sarà penso abbastanza numerosa, qui ci saranno tantissime idee che verranno fuori e la lotta è appena iniziata. La GKN non si ferma, i compagni della GKN sono stati un esempio, con Insorgiamo Tour sono andati in giro in diversi posti, hanno creato questo legame con tanti lavoratori e speriamo che cresca sempre di più questo movimento e si riesca a lottare in tutti i luoghi di lavoro e in tutta Italia per cambiare finalmente le cose. Ecco, ci vediamo alla manifestazione del 22, mi raccomando alle 3, tutti in piazza insieme ai compagni della GKN e tutti quelli che con loro stanno cercando di sviluppare questo grande progetto, e poi ne parleremo, faremo una puntata specifica. Ok, ci sentiamo alla prossima puntata, ciao a tutti. Sorgiamo come il sole al mattino. Sorgiamo come il sole al mattino. Se non lotti che uomo, Facciamoci un applauso, dai. Aspetta, sì.